Radio 24 Reportage. I fatti del 2016. Il business delle ecomafie di Teresa Trillò. Mafia e ambiente è un connubio che genera una montagna di profitti, poco più di 19 miliardi nel 2015. Traffico di rifiuti, incendi, abusivismo edilizio, inquinamento ambientale, truffe agroalimentari, racket degli animali sono uno dei pilastri degli affari della criminalità organizzata. Affari sostenuti anche con la corruzione, il bancomat delle diverse attività. Qualcosa però sta cambiando, dice Legambiente nel rapporto annuale Ecomafia 2016. Dopo l'introduzione degli ecoreati nel codice penale si registra un'inversione di tendenza, spiega il direttore generale Stefano Ciafani. Per la prima volta notiamo una riduzione dei reati accertati, delle denunce, dei sequestri, e questo lo addebitiamo all'applicazione della legge sugli ecoreati che soprattutto nella seconda parte dello scorso anno ha garantito quell'effetto preventivo che auspicavamo. Chi inquina l'ambiente oggi rischia molto di più, e quindi c'è una sostanziale contrazione del fenomeno dell'illegalità diffusa sul fronte ambientale. Aumenta anche il numero degli arresti, e questo è segno di una più efficace lotta alle gravi illegalità ambientali. Il giro d'affari, seppur in flessione, resta comunque alto e supera di poco i 19 miliardi, 3 in meno rispetto all'anno precedente. Un calo legato essenzialmente alla netta contrazione degli investimenti a rischio nelle 4 regioni a tradizionale presenza mafiosa: Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. Queste regioni nel 2015 hanno ridotto la spesa per opere pubbliche e gestione dei rifiuti urbani sotto la soglia dei 7 miliardi, a fronte dei 13 del 2014. Dilaga poi la corruzione, anche in regioni dove la mafia non è di casa, come la Lombardia, dice Stefano Ciafani. Sulla fronte della corruzione abbiamo monitorato dati molto preoccupanti. Negli ultimi 5 anni e mezzo sono oltre 300 le indagini che hanno portato a ordinanze di custodia cautelare, ad arresti, a denunce e a sequestri, in indagini che hanno avuto a che fare con la corruzione nel campo ambientale. La prima regione in Italia è risultata la Lombardia, non una delle 4 regioni a tradizionale presenza mafiosa. Gli strumenti normativi cominciano ad esserci, la norma anticorruzione, le aggravanti sulla corruzione previste anche dalla legge sugli ecoreati. Serve intensificare le attività di contrasto, perché questo è l'altra faccia della piaga dell'illegalità ambientale nel nostro paese: pubblici funzionari, dipendenti pubblici che si prestano attraverso la corruzione all'illegalità ambientale. Sotto quel punto di vista, anche grazie ai nuovi strumenti normativi, bisogna innalzare il livello dello scontro. I clan attivi nel nostro paese, censiti dall'Ecoambiente, sono 326. L'ecomafia continua a coltivare affari nel Mezzogiorno. La Campania resta in cima alla classifica regionale degli illeciti, il Lazio è alla guida del Centro Italia e la Liguria è la prima regione del Nord. Secondo il rapporto di Legambiente, lo scorso anno sono aumentati gli illeciti nella filiera agroalimentare, i reati contro gli animali e gli incendi hanno registrato un'impennata del 49%. Piromani, ecocriminali ed ecomafiosi hanno ridotto in cenere più di 37.000 ettari. Si conta invece una flessione dei reati legati al ciclo dei rifiuti, anche se solo nelle ultime 12 inchieste condotte tra gennaio 2015 e maggio 2016 sono state sequestrate 3 milioni e mezzo di tonnellate di rifiuti, più o meno l'equivalente di 141.000 TIR. Nel 2015 sono poi aumentate le contraffazioni alimentari. I reati accertati, rileva Legambiente, hanno superato quota 20.000 e ci sono stati più di 4.000 sequestri, per un valore complessivo di quasi 600 milioni di euro. Parmigiano Reggiano, vino e olio extravergine di oliva taroccati preoccupano anche Federalimentare. Il falso, dice il presidente dell'associazione Luigi Scordamaglia, è preoccupante. Ancora peggio è l'Italian Sounding. Sebbene si tratti di casi sostanzialmente molto isolati, in termini di immagine danneggiano moltissimo la nostra filiera, i nostri prodotti, sia sul mercato interno, creando preoccupazione del consumatore, sia sui mercati internazionali. Le regole per contrastare la contraffazione alimentare ci sono, ma come filiera alimentare, come industria, abbiamo voluto partecipare col ministro Orlando all'elaborazione di un disegno di legge molto importante che ricodifica completamente i reati penali alimentari, introduce nuovi strumenti per contrastare questa contraffazione, aggrava le pene e introduce anche sistemi di responsabilità amministrativa 231 eccetera, insomma un modello molto simile a quello degli ecoreati che ha ben funzionato finora. In termini economici sicuramente è il fenomeno dell'Italian sounding che è enormemente più grave in termini quantitativi della contraffazione, cioè non viene contraffatto un prodotto ma viene attribuita italianità ad un prodotto che italiano non è sui mercati internazionali principalmente. Questo ovviamente ruba del mercato e dei posti di lavoro al nostro paese, si dice che valga 60 miliardi di euro quando tutto il nostro export agroalimentare è appena 30 miliardi, in realtà anche i 60 miliardi sono assolutamente sottostimati, sono una ricerca del 2005. Se pensiamo che nei soli Stati Uniti su 27 miliardi di euro di food and beverage italiano venduto come italiano, in realtà solo un ottavo, appena 3 miliardi, è realmente esportato dall'Italia e l'altro è falso italiano. Questo ci danneggia tantissimo e per questo che abbiamo creato l'osservatorio di Federalimentare Cibus per l'Italian Sounding, per individuare in ogni mercato gli strumenti legali attraverso cui contrastare questo fenomeno, meno grave forse della contraffazione in termini assoluti, ma molto più dannoso da un punto di vista economico ed occupazionale. Traffico di legnami e racket degli animali sono altre due fonti di reddito per l'ecomafia. Bracconaggio, commercio illegale di specie animali protette, allevamenti illegali, macellazione in nero, pesca di frodo, combattimenti clandestini di animali sono solo alcuni dei reati più diffusi nei confronti degli animali. E in Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, regioni a tradizionale presenza mafiosa, se ne sono contati quasi 4.000, più del 47% dei reati consumati su tutto il territorio nazionale. Legambiente ha approfondito il fenomeno nel rapporto di quest'anno. Quest'anno abbiamo fatto un focus sul cosiddetto racket degli animali e delle specie protette. Diciamo, questo riguarda sia la fauna sia la flora. È un mercato molto fiorente, internazionale. Sul territorio nazionale ci sono degli operatori che attraverso i mercati internazionali si approvvigionano di specie protette, specie animali e anche di legname magari particolarmente pregiato che viene prelevato da territori dove sono state commesse delle illegalità, e questa è una tipologia di racket degli animali. Poi c'è quello che invece viene in qualche modo messo in campo nel nostro paese senza il fronte internazionale, che è appunto quello che vede soprattutto nelle regioni a tradizionale presenza mafiosa commettere magari in pieno centro cittadino corse clandestine di cavalli, in zone di periferia mettere in campo combattimenti illegali tra cani su cui girano tanti soldi delle scommesse clandestine, insomma tutte queste attività che sono purtroppo molto ricorrenti in Italia e che purtroppo le forze di polizia che sono in qualche modo interessate a questi fenomeni non hanno oggi gli strumenti del codice penale adeguati per contrastarli con efficacia. A rischio anche beni culturali. Lo scorso anno ne sono stati recuperati o sequestrati per un valore che supera i 3 miliardi di euro, una somma 6 volte superiore ai 530 milioni del 2014. Ora, dopo l'approvazione della legge sugli ecoreati, per contrastare ancora di più l'ecomafia, secondo Legambiente, è fondamentale che il Parlamento approvi altre leggi in questo ultimo scorcio della legislatura. Il dato sul business delle ecomafie continua ad essere davvero incredibile. Con cifre astronomiche, e su questo è fondamentale innalzare la tutela penale sotto tutti i punti di vista. La legge sugli ecoreati è una prima risposta, ma servono anche altre risposte sotto altri punti di vista. Il ciclo legale del cemento ha bisogno di una legge che garantisca demolizione degli ecomostri più veloci, e sul fronte del racket degli animali serve una norma che inserisca nel codice penale il delitto di reati contro la fauna e la flora protette. Così come sul fronte dell'agroalimentare e delle agromafie serve approvare in tempi brevi il disegno di legge predisposto dal ministro Orlando e dal procuratore Caselli con il suo gruppo di lavoro presso il ministro della giustizia, che permetterebbe di fermare tutte le attività legate alla contraffazione non solo messe in campo dalle organizzazioni criminali nel settore agroalimentare. E serve anche un passo avanti sul fronte giudiziario, dice il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti. Obiettivamente la legge è stata adottata nel 2015 e ha ridato nuovo slancio a quelle che sono le indagini in materia ambientale. Credo che però sia necessario fare un salto di qualità, cioè arrivare a misurare non solo la repressione investigativa ma anche la repressione giudiziaria, cioè la giustizia, i risultati, gli esiti giudiziari. Ci manca ancora la possibilità di misurare con precisione gli esiti giudiziari della legislazione nuova. Quante condanne, quante confische, non solo quanti arresti o quanti sequestri, ma quante condanne e quante confische, per poter misurare effettivamente l'efficacia di questa nuova normativa. Sono strumenti che mancano ancora, credo che insomma bisognerà adoperarsi perché ne possiamo disporre per l'anno prossimo. E servono più magistrati specializzati. E serve poi, ripeto, la possibilità di monitorare il fenomeno sotto il profilo della risposta giudiziaria, non solo sotto quello della risposta investigativa ma anche quella giudiziaria, che è fondamentale proprio per misurare l'efficacia della risposta dello Stato alla criminalità ambientale. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.